9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Eccoci qua, buon mercoledì 19 di settembre. Sapete che santo è oggi? Quello che forse dovrebbe guardare e darci una mano dall'alto, vista la gravità dei problemi dell'Italia, San Gennaro. Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, ed eccoci ancora al tema del giorno, un tema di quelli che io oggi praticamente siamo in continuata con Alessandro Milan, perché lui si è occupato dello scandalo, degli scandali che si annidano nei soldi pubblici delle regioni, dopo il caso Lazio che ancora oggi impazza, e come sui giornali ci sono dei titoli veramente di quelli che non possono che procurare ai partiti nuove, fondatissime ragioni di malessere e proteste da parte dei cittadini. Sfoglio a caso dei giornali che dice il capogruppo PD alla Regione Lazio, Battistone resiste, non mi dimetto. Poi dopodiché di questo fiorito, l'ex capogruppo che è stato travolto, quello dei 109 bonifici sui suoi conti esteri, e che diceva che lui addirittura si faceva aiutare dalla famiglia perché non aveva denari. Il titolo del Messaggero è 5 case, lo yacht, le auto, si indaga sul tesoretto di Fiorito, oggi l'ex capogruppo in procura. E poi c'è un altro suo collega di gruppo, quei toga party di De Romanis, e lui si difende, dice solo feste in maschera, mai frequentate Squillo, ho una fidanzata di 25 anni. Insomma, direi che il quadro ha e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo sul Messaggero, girate pagina, lo dicevo, sul Messaggero ho un problema di ritorno in cuffia, per questo mi avete sentito interrompermi, perché avevo sentito l'audio di Annacci andare molto su e credevo di essere rimasto senza voce, mi scuso per questo. Dico, se poi continuate ovviamente lo sfoglio dei giornali su questo argomento, arrivati inevitabilmente al tema che volevamo e vogliamo affrontare oggi con alcuni esperti, chiedendo anche a voi come la pensate. Ed è un tema che mi ha molto colpito, non tanto appunto perché voglio intingere il biscotto nella facile demagogia contro i partiti eccetera, ma mi ha colpito che esattamente nei giorni in cui il caso della Regione Lazio ripropone in maniera esplosiva ciò che avviene per la mancanza di controlli, la mancanza di, come la vogliamo chiamare, di un'elementare etica di fondo, proprio elementare, l'ABC da parte di questi signori consiglieri regionali, che si vedono attribuiti personalmente, ciascuno di loro, i soldi di cui hanno diritto sommati in quanto gruppo politico per fare politica, invece se li pigliano e fanno quello che vogliono, che proprio in questi giorni alla Camera dei Deputati, di fronte al problema se fare, come organizzare i controlli sul denaro pubblico che va ai gruppi parlamentari, che proprio in questi giorni decidano di incartarsi in una nuova polemica su affidare o meno la certificazione esterna dei bilanci dei gruppi parlamentari a società terze, beh, questo mi ha molto, molto, molto colpito. Di che cosa si tratta? Si tratta di un... poiché a tutti gli effetti il denaro, il contributo pubblico ai gruppi parlamentari costituisce un pezzo fondamentale, quasi altrettanto equivalente in termini di peso finanziario, del finanziamento pubblico travestito da contributi elettorali ai partiti, perché contributi elettorali ai partiti per rimborso dei voti sono in un limite di poco più di 90 milioni di euro all'anno. Se sommate il finanziamento ai gruppi parlamentari di Camera e Senato, vi dovete aggiungere 72-73 milioni l'anno. Ecco, questo pezzo che alimenta quindi il finanziamento pubblico a tutti gli effetti ai partiti, sia pur travestito da indipendenza dei gruppi parlamentari all'interno quindi del recinto, la sacra, intoccabile istituzione parlamentare, si deve considerare sottoposto al controllo solo di organi interni della Camera, e bisogna accontentarsi del fatto che comunque qualche passo avanti, anche rilevante, è stato compiuto, visto che i bilanci dei gruppi dovranno fare parte costitutiva del bilancio, quindi reso pubblico della Camera? Oppure non sarebbe meglio anche aggiungervi una certificazione esterna? E soprattutto, che cosa di male ci sarebbe ad aggiungervi una certificazione esterna? Oggi trovate tutti i quotidiani italiani che dedicano a questa vicenda bei titoli di prima pagina, un mucchio di editoriali. Chi favorisce l'antipolitica, scrive Francesco Paolo Casavola sul Messaggero, su Repubblica, nella foresta dei Gattopardi di Curzio Maltese, sotto il titolo Soldi ai partiti, lite alla Camera sui controlli. Oggi veramente non c'è differenza tra i giornali di qualunque indirizzo italiano di fronte a una vicenda come questa, perché appunto ciò che non può che stupire è la totale improntitudine con la quale alla Camera dei Deputati decidono di dare di sé un'immagine come quella che è venuta ieri da questa vicenda, e che poi nel tardo pomeriggio, in serata, è stata nuovamente modificata, perché mentre si era appreso fine mattinata che vi sarebbe stata la certificazione esterna, poi nel pomeriggio in un organo interno di giunta si è appreso che invece la proposta iniziale, che era sostenuta dal presidente Fini, era stata respinta dai partiti, nessuna certificazione esterna. In serata si è appreso invece che torniamo alla certificazione esterna. Ma anche questo va e viene, ripeto, pone delle domande, perché la domanda più banale è: come diavolo è possibile che non si rendano conto che così inzaccherano ulteriormente l'immagine che hanno di fronte a noi tutti, prestandosi al ruolo di chi dice: ma quanti controlli volete, non servono. Trovate le dichiarazioni di Sposetti, un ex tesoriere del PCPDS, che è un sicuro termine di riferimento per i giornalisti che, quando si tratta di difendere la logica dei partiti, la centralità, l'importanza dei partiti, di partiti che non accettano di andare sotto schiaffo, lo chiamano e trovano in lui sempre una buona risposta che si presta a questo giochetto giornalistico. Ancora oggi Sposetti c'è cascato, perché su tutti i giornali trovate le sue interviste in cui dice: ma insomma, che certificazione esterna? Ma non vi siete per caso dimenticati che anche a Parmalat e al caso Enron, i due più grandi crack finanziari della storia, uno mondiale, uno italiano, la certificazione esterna non valse a evitare il crack? Ecco, io trovo azzeccato di questi paragoni solo il fatto che paragoni il sistema dei partiti al crack Parmalat e al crack Enron. Però usare argomenti simili a me sembra un altro clamoroso autogol che rivela che cosa poi. Io non voglio dare giudizi, adesso passo la voce agli esperti che ci spiegano se stiamo esagerando tutti, noi della stampa, se esagera la gente ad arrabbiarsi e quanto fondamento abbia invece la tesi per la quale bisogna accontentarsi davvero dei passi avanti fatti nel regime dei controlli in questi ultimi anni. Però la discrasia tra l'immagine di sé che vogliono dare i partiti e la politica, e poi il giudizio che ne viene fuori nei sondaggi e nelle amministrative, sta innanzitutto su questa questione, esattamente di come i partiti e la politica trattano l'argomento dei soldi per sé rispetto a quello dei soldi che chiedono per sé in altro modo, chiedono per lo Stato, ma che escono dalle nostre tasche. Ecco, il regime non può che essere più differente, come l'alba e il tramonto, come il giorno rispetto alla notte. Allora, abbiamo con noi, per spiegarci, innanzitutto Giancarlo Bressa, che è capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali della Camera ed è uno dei due correlatori del provvedimento in questione. Buongiorno e grazie, onorevole Bressa. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Paolo Bracalini, che ha scritto un giornalista del Giornale, e che ha scritto un libro, Partiti Spa, che è la disamina, diciamo così, più amara e compiuta e recente di come, diciamo, si presti a un bel po' di critiche l'argomento della finanza e della conduzione finanziaria dei partiti politici in Italia. Buongiorno e grazie anche a Paolo Bracalini. Buongiorno a voi. Allora, Bressa, ci spiega a che punto siamo con questo provvedimento? Come mai ieri il va e vieni della notizia che oggi alimenta, ripeto, sulla stampa tutto ciò che credo non vi faccia bene? No, che non faccia bene siamo tutti d'accordo. Il problema però è che quella di ieri non era una notizia, perché la giunta per il regolamento è convocata oggi e oggi si decide, per cui è stata montata una grande confusione sostanzialmente sul nulla. Quello che io vorrei sottolineare però è un'altra cosa. Lei giustamente ha detto che in questo momento parlare dei controlli dovrebbe essere una cosa che deve essere improntata al massimo della chiarezza e al massimo della trasparenza. E se la notizia c'è, è che oggi la giunta per il regolamento introdurrà i controlli per i bilanci dei gruppi parlamentari. Scelta che viene fatta perché ad aprile di quest'anno, dopo che è stata approvata la legge sul controllo del finanziamento pubblico dei partiti, il presidente del gruppo del Partito Democratico, l'onorevole Franceschini, scrive una lettera a Fini sollecitando che così come deve esserci un controllo per i partiti, altrettanto deve esserci un controllo e una trasparenza per i soldi che vengono gestiti dai gruppi parlamentari. Qui c'è però da dire una cosa fondamentale per chiarire: i gruppi parlamentari ricevono dei contributi che devono essere finalizzati alle attività connesse alla funzione legislativa del Parlamento, perché i gruppi parlamentari non sono soggetti politici, ma sono strumenti del Parlamento per il funzionamento della Camera stessa. Fatta questa premessa, quello che verrà deciso oggi sarà semplicemente, ma a mio modo di vedere molto opportunamente, detto che anche i bilanci dei gruppi parlamentari dovranno essere inseriti nel conto consuntivo della Camera, dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e dovranno essere controllati dal servizio del bilancio della Camera e della Commissione e dal Collegio dei Questori. Gli strumenti che la Costituzione individua per il controllo del bilancio della Camera. Allora, delle due l'una: o questo è uno strumento che funziona e quindi dal 1947 ad oggi i bilanci che sono stati approvati della Camera, organo costituzionale, sono stati correttamente legittimati, controllati, vidimati e verificati da uno strumento che viene previsto dalla Costituzione e dal regolamento, perché la Camera è autonoma, oppure se si dice che questo strumento che deve controllare non basta, non è sufficiente, c'è una presunzione di irregolarità dei bilanci della Camera, cioè di un organo costituzionale del 1947 ad oggi. Questo è quello che avverrà oggi. Lei giustamente dice che male c'è aggiungere la certificazione esterna. Non c'è nulla di male, a me va benissimo che si aggiunga la certificazione esterna. L'importante è che si aggiunga la certificazione esterna, perché le società che certificano, quelle sì, possono essere scelte dal gruppo parlamentare, e l'esempio che lei ha fatto del caso Parmalat dovrebbe farci capire che non sempre queste società di certificazione sono davvero terze. È tutto qui. No, aspetti un secondo, adesso le faccio una domanda con alcune mie obiezioni. Per me, io quando ho dato l'esame di diritto costituzionale, fu il mio primo esame troppi decenni fa, quando appresi, studiando meglio il diritto costituzionale, che vi erano alcuni organi, e il Parlamento è tra questi, per esempio, che non erano soggetti al regime ordinario di controllo della Corte dei Conti, perché organi apicali costituzionali, a me la cosa per esempio non piacque, perché dissi: ma per quale ragione? Bisogna considerare che la Camera dei Deputati, il Senato, la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale sono in questo delle specie di emanazioni intoccabili, per cui il regime ordinario dei controlli che è previsto nel nostro ordinamento per i soggetti pubblici per loro non vale, perché dice: ah, ma perché incarnano la rappresentanza della sovranità popolare. E a maggior ragione io vorrei che questo avvenisse avvenisse anche con controllo ordinario. Quindi banale considerazione dello studente che aveva il manualone Mortati su cui leggeva, si grattava la testa e diceva: bah, mi sembrano dei residui delle prerogative delle corti sovrane assolutiste nei confronti dei controlli esterni. Quindi capisce che l'argomento, che io considero un po' fittizio, per il quale i gruppi parlamentari sono espressione, strumento delle attività della Camera in politica, io, sa, in una vita precedente sono stato dirigente nazionale di un partito, portavoce, insomma, dei gruppi parlamentari facevano quello che diceva il partito e spesso si attingeva ai loro fondi. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Allora dico che, siccome la Camera ha un regime di controlli particolare in quanto organo di particolare rilievo istituzionale, io dico che c'è una ragione per cui su sta storia dei soldi dei partiti magari metterci qualcosa in più è una buona osservazione. Dopodiché, mi perdoni, perché di finanza poi mi occupo strutturalmente, i casi Parma, la Terra, cioè, che cosa testimoniano? Testimoniano che degli impianti di freni, se parliamo di automobili, talvolta non funzionano, e non funzionano molto colpevolmente, perché a un certo punto chi vuole condurre l'automobile li disattiva perché vuole andare molto più veloce. Ma non è che se un impianto di freni viene disattivato o non funziona, noi adesso diciamo: vabbè, l'automobile senza freni è una bella invenzione, perché ovviamente è una stupidaggine. Allora, quello che davvero però Bressa, la prego, dando atto al suo partito di essere in prima fila tra quelli che ieri hanno detto: ma noi lo faremo comunque la certificazione esterna, quello che non capisco è i colleghi degli altri gruppi che puntano i piedi e dicono: ma che cosa vogliono questi? Se ne rendono conto di ciò che poi si determina e quanto è grave lo scostamento del paese nei confronti di atteggiamenti di questo tipo? Oppure una specie di sfida, come dire: vabbè, vediamo un po' cosa succede. No, Giannino, guardi, a parte il fatto di quelle che sono le sue perplessità sulla Costituzione italiana, ma fin tanto che non cambia, quella è e quella va attuata. Lo so, quindi mi dispiace per il suo mal di pancia, ma purtroppo gli organi costituzionali hanno una loro caratteristica. Ma la cosa che io vorrei sottolineare: lei ritiene davvero che i bilanci del 1947 ad oggi della Camera, che sono stati certificati da questi organismi di controllo interno, siano dei falsi in bilancio? Non credo proprio che si possa dire questo, perché se si assume questo, allora è sana mia, libera tutti, stracciamo la Costituzione e ognuno faccia quello che vuole. Invece io sono per il rispetto di quelle che sono le norme, soprattutto le norme costituzionali. Il principio di legalità è qualcosa che in questo nostro paese sarebbe sempre bene in qualche modo ravvivare e non calpestare. Ciò detto, io non credo che ci sia da parte, lei, questo la ringrazio, ha dato atto al mio partito che noi comunque faremo ricorso alle società di certificazione, l'abbiamo fatto anche per il partito prima che fosse di legge, ma non credo che gli altri partiti si oppongano, semplicemente dicono che questo controllo da parte di una società di certificazione esterna si aggiunge. Non può essere l'unico, perché sennò, se è l'unico, lei capisce che, poiché le società di certificazione non sono enti terzi, non sono delle autorità indipendenti, ma sono delle società private che vengono scelte dal soggetto che deve farsi certificare, lei capisce che è una forma di controllo molto debole. Allora io credo che l'ipotesi che viene fatta, che è stata fatta, del controllo da parte del servizio bilancio del Collegio dei Questori, che ripeto sono quelli che certificano la regolarità dei bilanci di un organo costituzionale, quindi non è pizza e fichi, a questo si può tranquillamente aggiungere il controllo della società di gestione. Però bisogna che quando si parla di queste cose si sia seri e non si raccontino delle balle. Oggi ci sono alcuni autorevoli giornali, autorevoli quotidiani, che raccontano una storia che non c'è. Per esempio il Corriere della Sera a un certo punto parla che l'ipotesi che sarebbe stata avanzata e che oggi la Giunta del Regolamento doveva affrontare era che i bilanci dei gruppi dovevano essere controllati da un soggetto che gli stessi gruppi avrebbero scelto. Questo non è assolutamente vero, ed è anche quando si mettono in circolazione delle falsità che si alimenta il circuito dell'antipolitica. Io sono perché i partiti, i gruppi parlamentari siano delle case di vetro, ma voglio che questo avvenga nel rispetto del principio di legalità, nel rispetto della Costituzione. Noi come Partito Democratico non abbiamo niente da nascondere, gli altri partiti immagino che se interpellati avranno le loro argomentazioni per spiegare qual è il loro stato e la loro situazione, che io evidentemente non conosco e non posso giudicare. Ma oggi la Giunta per il Regolamento fa un passo in avanti importantissimo, perché così come c'è un controllo, e in quel caso sì, di un ente autonomo terzo per i partiti, c'è un controllo puntuale, trasparente, i cui risultati e i cui dati verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, su internet, e saranno di dominio pubblico. Questo è un passo in avanti per impedire che possano succedere quelle cose pessime, terribili, ingiustificate e ingiudicabili di cui si legge sulla stampa in questi giorni. Però io vorrei che quando si affrontano questi temi, lei giustamente ha detto, non si alimenti la facile demagogia, ma si guardi a quella che è la realtà. Oggi la Giunta per il Regolamento introduce un sistema di controllo molto stringente, al quale, io sono d'accordo con lei, si può tranquillamente aggiungere la certificazione esterna da parte di società di revisione. L'importante è che non venga smontato questo controllo delle strutture di bilancio, che sono la vera garanzia che non si fanno più pasticci e porcherie, se fino ad oggi. Allora, onorevole Bress, io le do atto di quello che ha detto, però tenti di capire, perché io sono qua, secondo me giustamente su un tema come questo, vorrei farle vedere gli sms che arrivano, e francamente dopo i casi Belsito, dopo i casi Lusi, dopo il Consiglio regionale del Lazio, dopo quello che c'è dovunque, pensare che gli italiani, gli elettori, i contribuenti italiani siano solo vittime di approssimazione e demagogia, che pure esistono nei miei colleghi di stampa, secondo me è un po' sbagliato. Voglio dirle che in molti italiani l'idea, per esempio, che questo regime di controlli laschi sugli organi apicali costituzionali nel nostro ordinamento abbia a che vedere in qualche modo col fatto che i loro costi siano iperlievitati rispetto a quello degli organi analoghi in altri ordinamenti, questo gli italiani lo pensano. Quando lei mi dice, ma lei pensa che 46 anni di bilanci non certificati della Camera dei Deputati forse per questo sono falsi, la mia risposta è che, avendo visto lo sviluppo per esempio degli investimenti in immobilizzazioni patrimoniali, immobiliari, al centro di Roma, eccetera eccetera, molto forte nel quindicennio alla nostra spalla, meno negli ultimi anni quando ovviamente è diventato stringente il morso del bilancio pubblico, ecco, su quello, se ci fosse stato un regime di controlli più aperto e diverso, non più lasco, io credo che sarebbe stato possibile apprenderlo prima e discuterlo prima, invece che apprenderlo a cose fatte dopo, con un regime particolarissimo di procedure di aggiudicazione di quel tipo di offerte fatte alle proprietà e così via. Quindi io credo di riferirmi a un bel blocco di conoscenze che ho su come siamo arrivati a questi costi, che nel mio giudizio è vero, oggi fanno un passo avanti verso la trasparenza con le norme che voterete, ma quello che mi colpisce è che ogni volta gli uomini dei partiti, come dire, non riescono a evitare di fare la figura di quelli che dire però non potete chiedere troppo da noi. Non lo so, io su questo nel ringraziare l'onorevole Bressa, che deve andare a pressanti impegni parlamentari. Stiamo parlando della vicenda del controllo esterno o meno di certificazione sui bilanci dei gruppi parlamentari. L'onorevole Bressa, la Giunta del Regolamento del PD, che pure accetta la certificazione esterna, ci ha difeso l'argomento per il quale in definitiva non ce n'è nessun bisogno, perché è già un gran passo avanti l'idea che c'è un controllo che prima non c'era, comunque sia pure interno, nel denari ai gruppi parlamentari, che costituiscono in realtà la seconda gamba di grande rilievo rispetto al finanziamento ordinario, detto per ipocrisia rimborso elettorale ai partiti. Allora, Bracalini, come la pensi tu su questo argomento, visto tutto quello che hai, di cui hai stivato il tuo libro prezioso, che è uno di quelli che giustamente fanno molto arrabbiare i cittadini e contribuenti di questa vicenda? Com'è che ci cascano sempre a fare queste figure di chi ha le dita nel barattolo di marmellata e non lo tira fuori? Ecco, sì, a me colpisce appunto la tempistica. Sono rimasto abbastanza esterrefatto anche dalla giustificazione dell'onorevole, che parla come se fosse il capo di un'azienda o di una società, insomma, che amministra soldi privati. Primo, loro fanno i politici e dovrebbero avere una responsabilità diversa verso il pubblico. Secondo, sono soldi nostri, quindi un controllo esterno di società che fanno quello di mestiere se si aggiunge ai controlli che stanno mettendo, non è certo un male, tant'è vero che lo stesso PD lo ha fatto a livello nazionale sul bilancio e si vanta giustamente di questo da un anno, da quando sono scoppiati gli scandali. Cioè, mi sembra che la classe politica abbia perso anche l'istinto di sopravvivenza minimo, perché parlano come se vivano in un paese diverso dal nostro. Cioè, noi da una settimana stiamo leggendo con un certo disgusto quello che il gruppo regionale del primo partito in Regione Lazio faceva con i soldi pubblici, Mercedes, cene con le ostriche, serate con donnine, eccetera. E questo viene dopo un altro enorme scandalo in cui un tesoriere è stato arrestato ed è agli arresti domiciliari da mesi, un altro è indagato da due procure perché prendevano decine e decine di milioni di soldi pubblici, e nonostante questo si parla come se in punta di diritto i gruppi parlamentari hanno un'autonomia istituzionale. Ma qui, voglio dire, il manuale di diritto costituzionale lo lasciamo un attimo da parte, perché stiamo parlando di una situazione completamente anomala che non ha paragoni in Europa, tant'è vero che nel 2011 il Consiglio d'Europa ha fatto, il GRECO, cioè il gruppo anticorruzione del Consiglio d'Europa, ha fatto un rapporto durissimo sul finanziamento pubblico in Italia, esortando con grande urgenza a cambiare le regole di un meccanismo che era evidente già nel 2011, ma era evidente già dal 99 quando è stata fatta questa legge, dava mano libera a un tesoriere che fosse anche un mariuolo di farsi gli affari suoi con i soldi dei partiti. I partiti non si sono accorti di questo, arrivano adesso in enorme ritardo e soltanto sull'onda di scandali vergognosi a mettere mano a questo sistema, e ci spiegano invece che adesso è tutto perfetto, siamo a livello europeo. Non è affatto così, siamo ancora in una situazione di emergenza in cui appunto c'è una classe politica che sulle prime pagine si racconta di Luisi Bessito, il capogruppo e tesoriere di un gruppo regionale fa le stesse cose che fanno Luisi Bessito. Quindi evidentemente in una percezione dell'impunità della classe politica, anche grazie a delle regole totalmente di opacità assoluta che hanno mantenuto nell'oscurità tesorieri disonesti, e secondo me ce ne sono altri, insomma, perché la Guardia di Finanza fanno il blitz anche giustamente, diciamo, nelle imprese, nei negozianti, eccetera, ma perché non fanno un bel blitz ogni tanto nelle segreterie di partito o nelle tesorerie dei gruppi regionali? Cioè, possiamo anche chiedere a Befera, diamo questa idea. Secondo me la Guardia di Finanza avrebbe molte cose da scoprire, molti scontrini da controllare, invece di mettere in croce degli imprenditori per 1.000 euro. Allora, sentiamo, si è aggiunto anche Massimo Villone. Massimo Villone, molti di voi ricorderanno, è stato anche parlamentare della Sinistra Democratica, però professionalmente insegna il diritto costituzionale, e insieme al professor Cesare Salvi sono stati autori di un libro che è uscito qualche tempo fa, Il costo della democrazia, qualche anno fa, ed è un libro, siccome sono passati 5 anni, di quelli ai quali bisogna riconoscere il fatto di aver aperto il filone della cassa dei costi della politica. 5 anni fa erano tra i primi a porre il problema, tra gli altri della trasparenza e dei costi di queste macchine. Chiedo al professor Villone, oltre a ringraziarlo e a salutarlo, buongiorno. Buongiorno. Chiedo a lei, dovesse dirci, per un pubblico non tecnico per così dire, ma in termini chiari, il regime del controllo sulla finanza dei partiti e dei gruppi parlamentari, se dovessimo pensare per esempio ad alcuni grandi paesi europei e all'Italia, lei da tecnico ma anche da ex parlamentare e quindi come ex oggi ha recuperato per così dire la qualifica di cittadino, forse li può capire meglio perché i cittadini sono arrabbiati rispetto a chi sta dentro al palazzo. Lo capivo anche prima, ma però io, come ho frequentato poi un periodo, so che a un certo punto entra questa specie di impermeabilità che mi ha sempre colpito, e le potrebbe spiegarci secondo lei in che cosa consistono a oggi le anomalie e le debolezze dal suo punto di vista di questi problemi di cui stiamo parlando, cioè il controllo su partiti, gruppi parlamentari, eccetera. In Germania, per esempio, tutto passa per le fondazioni che sono il pilastro vero del finanziamento alle attività dei partiti, ma hanno, nella mia esperienza, una trasparenza e soprattutto organizzano davvero cose che servono sia in Germania che fuori, esclusivamente volte ad attività politica. Però in Italia abbiamo un regime un po' particolare. Da dove si potrebbe cambiarlo, secondo lei? Ma certamente dal ripensare alcuni istituti, che sono per esempio quello dell'autonomia. Io quando sento oggi dire che i gruppi parlamentari hanno, come dire, il diritto di sottrarsi a ogni forma di controllo e di visibilità, certo, noi possiamo tecnicamente argomentarlo, ma la cosa non è affatto opportuna. L'autonomia è come se fosse un tale che vede attorno a sé un recinto che lo difende dalle intrusioni, però quel tale che è garantito da quel recinto può aprire la porta e far entrare qualcuno. Quindi è chiaro che si ha il diritto di tener fuori l'occhiuta vigilanza di altri, ma in un momento come questo, che vede una, in generale una caduta, io direi, dell'etica pubblica e della cultura, come dire, dei partiti che sono ormai diventati, rispetto a quello che erano un tempo, delle cose evanescenti, liquide e ingestibili, è chiaro che non si può opporre questo tipo di argomento. Io credo che il Presidente Fini avesse tutte le ragioni di fare la proposta che ha fatto e ritengo molto sbagliata e anche un po' sciocca la risposta che è stata data, che spero possa essere superata. È chiaro che quando i meccanismi che ci sono, che sono i controlli interni, i controlli dei questori, in particolare nel Parlamento, per quanto riguarda i gruppi parlamentari, non funzionano, la reazione normale è quella di dire rafforziamo, aumentiamo le pene, come dire, aumentiamo i controlli, aumentiamo la vigilanza. La risposta è questa. Altrove c'è un'etica pubblica, ahimè, più forte che da noi, perché queste cose, prima che alle regole, sono affidate al sentire comune. Quindi lei pensa che in realtà c'è una questione di regole, ma ci sia anche una questione antropologica, perché è chiaro che noi siamo figli, si chiama path dependence in economia, che i valori e i sistemi culturali che impregnano gli ordinamenti hanno un certo effetto nell'indirizzarne e nel frenarne gli sviluppi, la sintesi, no, di quello che pensa Douglas North. Lei pensa che ci sia anche una questione antropologica nel fatto che il politico italiano alla fine della fiera si senta più libero dei colleghi stranieri di cadere in incredibili, inaccettabili infrazioni dell'utilizzo del denaro pubblico, non che altrove non avvengano, ma non avvengano con questa sistematica frequenza? C'è una questione antropologica. Ma io noto questo, che la politica in tutti i paesi non ha mai una buona stampa in generale, no? Il politico non è amato dai suoi concittadini dovunque si trovi, però noi abbiamo un problema probabilmente più grave proprio di caduta dell'etica pubblica nel paese. In queste classifiche che sono state richiamate, noi siamo in generale ai posti più bassi. Le classifiche di Transparency International, che credo siano state prima richiamate per cenno da Bracalini, e noi siamo a livello della Tanzania, giù di lì, insomma, siamo all'80° posto. I paesi europei stanno tutti nella fascia alta, ma come nell'insieme, voglio dire, non per il finanziamento pubblico, è il paese intero che sta in basso, è chiaro. E quindi lei dice si rispecchia. Bracalini, sei d'accordo? Esiste uno specchio simmetrico tra i difetti degli italiani e i difetti dei politici oppure no? Beh, sicuramente la classe politica rispecchia dei difetti nazionali e poi si è creata, diciamo, un peso enorme della politica in Italia, per cui decide tutto. E quindi i politici si sentono in qualche modo intoccabili, al di sopra di tutto, e questo spiega perché riescono a fare delle cose, a rubare, mentre si parla delle ruberie della politica, cioè come se nessuno potesse scovarli. E questa importanza poi che la politica si è autoattribuita, che ha in un paese dominato dai partiti, dalla partitocrazia, si ripercuote anche sull'aspetto finanziario, cioè le somme, la quantità di soldi che l'Italia dà ai partiti, ai gruppi, non ha paragoni in Europa. Esatto. Adesso con la riforma verrà cambiata, ma anche questo è uno specchio del potere che la politica rispetto alla società civile, rispetto al mondo imprenditoriale, ha in questo paese, che è uno dei mali di questo paese, perché io per esempio ho scaricato dal congresso dei deputati spagnoli le quote che i gruppi prendono dal congresso sono un decimo di quelle italiane, cioè il Partito Popolare Spagnolo prende 840.000 euro e il gruppo del PDL alla Camera prende 11 milioni di euro. da 800.000 a 11 milioni, eh? Questa è la proporzione. Insomma, questa è la proporzione. Parla da solo. This is the end, davvero, caro Jim Morrison. Se avessi mai potuto prevedere quanto i politici italiani su questo non ci sentono. Sentiamo un po' come la pensano alcuni nostri ascoltatori. Cominciamo da Basilio. Basilio che ci chiama da Taranto. Prego, Basilio. Buongiorno, Giannino, buongiorno. Senta, io ho il piacere di parlare con una testa pensante, che la considero tale. Volevo dire una cosa, io per motivi anche anagrafici, ma molto prima di lei, sapevo che lo Stato non siamo noi lo Stato, anzi, le dirò di più, lo Stato è l'unico nemico che ho in giro, non ho altri nemici, io ho tanti amici, ma tanti, e lo Stato è l'unico nemico. Per non farla lunga, le voglio solo dire una cosa, io però non accetto la morale di questo Stato, di questi politici che ce l'hanno in mano loro, non accetto la morale, tipo quello spot che mi dà molto fastidio del parassita intestinale, eccetera. Sì, sì, sì. Allora, le dico subito una cosa. Io per motivi di salute faccio qualche controllo, faccio da me, sono competente, sì. allora se faccio un ecocardiogramma, un elettrocardiogramma dinamico e un po' controllo delle arterie con un ecocollar, cioè sì, tutte cose tecniche, mi costerebbero di ticket 120-130 euro, sì. Vado dall'amico privato, conosco l'ambiente eccetera, che è bravo, so che lo apprezzo, mi fa tutte queste cose qua, mi dice senti, non ti faccio la fattura, dammi 180 euro, cioè per 30 euro di differenza. Allora stamattina vicino a un poliambulatorio dell'AS c'è un bar che è pieno degli impiegati che stanno dentro a giocare le schedine, le cose, sì, tutte le varie grattacchie, è uno schifo, guardi, io di questo paese qua, che non lo amo per niente, ci vivo malvolentieri, le posso dire solo una cosa, per motivi di lavoro quasi tutti i mesi, anzi vado in Grecia, io ho origini anche greche, cioè, conosco quattro lingue europee, li vedo che si stanno per salvare, qui vedo che ci stiamo per distruggere. Addirittura Basilio dice stiamo andando peggio, comunque devo ammettere che anche a me quegli spot sul parassita fanno venire il prurito alle mani. Francesco da Milano come la pensa? Francesco. Sì, buongiorno. Dunque io penso che i suoi ospiti prima abbiano trattato la questione in maniera abbastanza approfondita. I due elementi sono uno economico e uno morale. Quello economico è che è abbastanza evidente che i soldi sono troppi, perché se hanno la possibilità di spendere a ostriche e champagne, vuol dire che i soldi sono troppi, esatto. Allora ne hanno bisogno per altre per bravo altre Francesco città. E questo è il lato economico. Poi c'è il lato morale. Il lato morale è palese, che la nostra classe politica, che secondo me rispecchia in buona parte la popolazione, sfrutta il potere, vede il raggiungimento del potere politico solo per gozzovigliare. Ecco, quindi... Francesco, io non so, io su questo non credo che sia lo specchio degli italiani. Io credo che purtroppo la quantità di mezzi finanziari e l'insindacabilità dell'utilizzo, oltretutto la mutazione delle macchine politiche che sono al comando dei segretari e delle segreterie, tutto questo, le tre cose sommate, accrescano il delirio di onnipotenza. Questo è il problema. Non sto dicendo che l'occasione fa l'uomo ladro, perché non generalizzo. Penso però che queste tre cose portino poi a politici che gozzovigliano, fanno queste cose che danno l'idea del loro elementare assenza di spessore morale e culturale della loro vita, perché quando uno legge quello che fanno, è come il motivo per cui Berlusconi si è ucciso con le donnine queste notte così, e dice diritto mio, ma diritto tuo di che? Non è questione prima del reato penale, vuol dire che indirizzi la tua vita in una maniera che è vuota, ispirata a delle cose che non contano niente. Ecco, questo è il problema di fondo, secondo me è un delirio di onnipotenza che poi dice. Pietro Lodine riesce a essere brevissimo? Brevissimo, sono aderente a fermare il declino, vabbè. Sto facendo diffusione, però un appunto dal di dentro, come si dice. Non trovo nei programmi, nei 10 punti del programma, delle proposte che riguardino effettivamente questo risanamento delle istituzioni politiche. Il discorso della certificazione del bilancio è aria fritta. Sono ma d'accordo. Perché non adottiamo delle regole come gli altri paesi europei, ad esempio la Germania, riducendo pesantemente il numero dei parlamentari, eliminando il finanziamento ai partiti. Oh, Pietro, noi su questo però, guarda, noi siamo contro il finanziamento, perché quando mai ne avessimo non lo accetteremmo. A domani.